dolce mio amore, lo so. Forse mai più tornerò. Sciolte son le vele forte, soffia già un vento deciso e ora alle Indie andrò. Lontano all'ovest sarò. Perché sai, l'ammiraglio dice che verso l'ovest il mondo ancora c'è, e in un grande giro l'ovest poi diviene est, est, est. E allora noi alle Indie andiamo già, veleggiando via i se e via i ma, con un folle giro all'ovest noi andremo a est, est, est. Dolce mio amore, non so se più avanti le Indie vedrò. Il mare è così grande e forte e brucia il sale sul mio viso, ma più a dove si va? Chissà se poi si arriverà. Perché sai, l'ammiraglio dice che verso l'ovest il mondo ancora c'è, e in un grande giro l'ovest diverrà est, est, est. Dolce mio amore, se un giorno io ti rivedrò, la paura è meno forte se ricordo il tuo sorriso, ed ora alle Indie andrò. Lontano est ed ovest sarò.